Facciamo fast a fast, fanculo il baklava. Casco integrale e voglio un conto a Panama. Conosco zingari dentro i caravan. Ti fanno il volante della tua macchina. Bimbi spacciano sopra i monopattini. Scaglie di cocco io sopra ci pattino. Soldi in contanti chiudo con l'elastico. Chiudi la bocca te la chiudo col nastro. Vi conosco brutte teste di cazzo. Quello che dite non l'avete mai fatto. Mi sposto solo se pagato. Foto sogno una Pagani. Hash, beh. Lama da 12 nelle mie mani. Traffic dei suoi peggio ho preso la mano. Da come parli sembra un gay dichiarato. Tani mantana, niente coco, sono di mi agitato. L'obiettivo è fare la grana. Stavo in cella a guardare il calendario. Tani mantana, niente coco, sono di mi agitato. L'obiettivo è fare la grana. Stavo in cella a guardare il calendario. Getter, zip e dealer. Business, niente top boy, sono con i killer. Chiudo un affare e non è legal. Entro in cella, ne esco peggio di prima. La tua ragazza sembra una scimmia. Soldi in contanti, ne ho fatti una pila. Rubavo X-Max e pure T-Max. In cella passavo giornate su D-Max. Jack da Shiva, scegli. Un cane mozzi, oppure un mita. Lo paghi 2000, sono 2002. Scopo 30 anni con marito e figlia. Tani Montana, niente coco, sono di me agitato. L'obiettivo è fare la grana. Stavo in cella a guardare il calendario. Tani Montana, niente coco, sono di me agitato. L'obiettivo è fare la grana. Stavo in cella a guardare il calendario.